Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Primo maggio 1947, Sicilia. È gran festa a Portella della Ginesta. Sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano nel giorno della festa del lavoro. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolle di vita ed ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Nei prati spuntano mille fiori gialli e rossi. C'è odore di mare. Quelle persone in festa hanno portato da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha già piazzato armi da guerra. Sulle persone in festa a Portella della Ginestra si abbattono centinaia di colpi in rapida successione. La strage dura un paio di minuti. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini e 9 adulti. Si chiamavano Giovanni Megna, Vito Allotta, Vincenza La Fata, Giovanni Grifò, Lorenzo Di Maggio, Francesco Vicari, Castrenza Intravaglia, Giorgio Cusenza, Margherita Clesceri, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo. 27 persone restano ferite. Il 3 maggio 1947 appare sul quotidiano Avanti un articolo che descrive la strage appena avvenuta in Sicilia. Folti gruppi di contadini si sono dati convegno a Portella della Ginestra per ascoltare, in occasione della festa del lavoro, alcuni oratori della Camera del Lavoro. Nel centro un podio di pietra. Quando sulla rudimentale tribuna salì il primo oratore, il calzolaio Giacomo Schirò, «Compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il primo maggio, la festa dei lavoratori». A questo punto il costone di Monte Pizzuto risuonò di raffiche e i primi proiettili fischiarono tra la folla. I primi morti caddero sulla pietraia. 10 minuti di raffiche, dalle 10.30 alle 10.40. Quando le mitragliatrici tacquero, a terra, uomini e donne e bimbi e vecchi sotto gli zoccoli dei cavalli impazziti. Sangue sui massi grigi, sangue sul rosso e le bandiere del lavoro strappate e lacere. Gli assassini scomparvero all'improvviso. Forse dovevano recarsi immediatamente a riferire dell'esito dell'eccidio a chi li aveva mandati a commetterlo. Sulla piana rimanevano i morti. Solo 4 mesi dopo si scopre una verità solo parziale. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano. Gente senza anima e senza valori. Predoni, criminali, che qualcuno però trasforma in un'armata irredentista e separatista. E allora compiamo un passo indietro. Per farlo ci avvaliamo di brani del film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano. Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza dalla Sicilia. E John, andiamo tutte soldate ora. L'Italia ci ha mandato per il fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti. Aprile 1943. Salvatore Giuliano aderisce al MIS, il movimento indipendentista siciliano sostenuto dalla mafia. Il movimento separatista nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce, uccide sindacalisti e militanti politici Il MIS non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento tra il 1943 e il 1947 gode di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello, assumendo il comando per la Sicilia occidentale. Giuliano diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. È questa la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra. Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro, Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo. Dopo la strage di Portella della Ginestra inizia la lunga inchiesta. La vicenda giudiziaria si conclude con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Viterbo il 3 maggio 1952. 12 ergastoli e altre 5 condanne per una strage rimasta senza mandanti. Ma Salvatore Giuliano era già morto e con lui i segreti che custodiva. Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra in un contesto politico di grande cambiamento. Quando nel 47, cioè nel maggio, le sinistre vengono cacciate fuori dal governo, il compromesso non viene rotto del tutto, perché rimane per esempio la Costituente, rimane l'impegno della Costituzione, il presidente della Costituente è un comunista, non viene cacciato via, mentre secondo la dottrina Truman avrebbe dovuto essere cacciato via. Non viene neanche rotto dopo il 18 aprile, perché dopo il 18 aprile il Partito Comunista poteva essere, per esempio, sciolto. Non è stato sciolto. Non si poteva sciogliere. Se si fosse sciolto chissà cosa sarebbe successo, però non è stato sciolto. E in seguito questa semi-intesa ha costituito la base costitutiva della democrazia italiana. Per cui noi abbiamo avuto questo movimento di destra fascista, reazionario, che in qualche modo non poteva egemonizzare gli avvenimenti e ricorreva alle provocazioni, perché gli attentati poi sono numerosi di tutti i tempi. Comunque sia, gli effetti di Portella della Ginestra, le destre vanno al governo nella regione, però si forma un governo di centrodestra in cui la Democrazia Cristiana da sola forma il governo, la maggioranza è di sinistra, ma la politica diventa di centrodestra. Nel 1950 le destre vengono ammesse nel governo e si formano i governi di centrodestra. Ebbene, nel 1950 la legge di riforma agraria e la riforma agraria in generale viene affidata alla gestione delle destre. L'assessore all'agricoltura è un liberale. L'ente di riforma agraria ha una sua composizione. Nel corso di questa trasformazione la mafia, la vecchia mafia dei feudi, si trasforma nella nuova mafia. Avviene la grande trasformazione della Sicilia, però in definitiva c'è il fallimento dei sindacati. E non falliscono solo i sindacati di sinistra, falliscono anche i democristiani. Non fallisce solo la politica comunista, ma anche quella democristiana, perché le forze politiche, questa almeno è la mia tesi, non riescono a governare il nuovo con una nuova strategia. Credetto di poter continuare con la vecchia politica, ma la situazione era nuova, poi venne lo sviluppo industriale. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare il retroscena della strage di Portella della Ginestra. Giallo e Nero, di Daniele Biacchessi. Sono molti i punti oscuri sulla strage di Portella della Ginestra. Giuseppe Casarrubea è il presidente dell'associazione Non Solo Portella, quella che chiede ancora verità e giustizia per i familiari della strage di Portella della Ginestra. Giudica così il fenomeno del separatismo in Sicilia. Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese. Giuseppe Casarrubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui si è dato una spiegazione su cosa può essere accaduto quel primo maggio 1947 in Sicilia. Quella strage è rimasta un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i quattro pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo avversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati, per quello che risulta dai documenti desecretati da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda. Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra. Renda ha scritto l'introduzione di un libro di Girolimo Li Cause, esponente comunista siciliano. Di Portella della Ginestra sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso cioè che ancora oggi noi non sappiamo chi ha armato la mano di Giuliano. Non lo sappiamo. E tutte le ricerche che sono state fatte non hanno portato a nessun risultato, perché il velo totale su questa cosa è stata posta dal ministro Scelba quando il 2 maggio, parlando alla Costituente, sostenne che il delitto non era politico ma banditesco, ne attribuì la responsabilità a Giuliano e impedì che si facesse una ricerca in tutte le direzioni. Mancate quelle indagini poliziesche e giudiziarie col processo di Viterbo, naturalmente poi è riuscito impossibile definire, perché tutte le voci circolanti relativamente alle responsabilità, comprese anche le cose dette da Li Causi, erano fondate su ipotesi, non su documenti, non su fatti che possono essere riportati. I due protagonisti della storia di Portella, due protagonisti voglio dire dal punto di vista politico generale, sono Mario Scelba da una parte, che sostiene la parte padronale, diciamo, e Girolamo Li Causi dall'altra. Su Portella della Ginestra, su come si è fatta la strage, io credo che con tutte le ricerche che sono state fatte da Casarrubea e dagli altri, siamo al punto di prima, ne sappiamo quanto prima. Siccome Tipi ha voluto fare riferimento al fatto che io fui a Portella della Ginestra, ma io fui a Portella della Ginestra non soltanto il primo maggio, sono rimasto 10 giorni, ho fatto anche l'inchiesta su come è avvenuta la strage. Se fosse vero quello che si sostiene, i morti di Portella, quello che sostengono i ricercatori, i morti di Portella non potevano essere 11, perché dal punto di vista quantitativo rispetto alle altre stragi che ci sono state nel paese, insomma, è una piccola cosa. Se si fosse sparato, dove si dice che fosse la regina Massi o altri, i morti sarebbero state centinaia. Testimoni giovani, che poi hanno testimoniato al processo di Viterbo, hanno confermato che si è sparato soltanto dalla pizzuta. I carabinieri poi hanno spiegato come furono sparati 1000 colpi e i morti furono soltanto 11. Chiesto se si fosse sparato dall'altra parte, se c'era gente dall'altra parte, quei testimoni oculari risposero no. Ma se si fosse sparato dall'altra parte, i morti, ripeto, sarebbero stati. Ma che sparatori erano questi della decima massa se non hanno ammazzato nessuno? Perché poi noi quando portiamo le tesi, bisogna vedere gli effetti, se ci sono i fatti che confermano. E i fatti di Portella confermano soltanto che a sparare sono stati i banditi di Giuliano. Le armi dei banditi di Giuliano erano armi moderne. Licausi disse anche che c'erano armi americane tra queste armi. Comunque erano armi efficaci, però che hanno provocato quella. Comunque il problema non è questo. Adesso siamo a 60 anni di distanza, non potendo avere più la verità politica, perché fu impedita, e neanche la verità giudiziaria, che è difficile riaprire il processo, dobbiamo vedere se è possibile conseguire una verità storica, che è l'unica ricerca che oggi possiamo fare. Il resto possiamo ripetere la nostra tradizione, la nostra gloria, i nostri meriti, ma dal punto di vista dell'accertamento della verità, oggi come oggi possiamo acquisire solo una verità storica. Lo storico Nicola Tranfaglia ha lavorato su documenti degli archivi italiani e stranieri, in particolare americani, ed è arrivato ad una conclusione sui mandanti della strage di Portella, anche se molti suoi colleghi lo hanno duramente criticato. Un esempio molto significativo perché mi riguarda direttamente. Io 3 anni fa ho scritto un libro in cui ho utilizzato una serie di documenti americani e italiani per ricostruire la strage di Portella della Ginestra. E quello che mi è capitato è che gli storici italiani, gran parte degli storici italiani, non hanno voluto accettare quello che veniva fuori dai documenti americani e italiani nuovi, perché questo contrastava molto con dei luoghi comuni che si erano ormai affermati, cioè che la strage di Portella l'aveva fatta soltanto Salvatore Giuliano, che non erano entrati altri attori, a cominciare dai servizi segreti americani, e che dunque questi documenti, secondo loro, non potevano cambiare la versione, diciamo, stabile. E questo è un caso in cui un episodio di revisionismo legato a fattori culturali non ha inferto la barriera che si era creata. Ma cosa potrebbe rivelare ancora l'inchiesta sulla strage di Portella della Ginestra? Lo storico Giuseppe Casarubea offre in conclusione una spiegazione plausibile. Ci sono delle persone ancora vive. Ci sono delle persone ancora vive che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi, lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia, la Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva, era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare, perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse o sorgesse secondo certe caratteristiche. E molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo, Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale, e alla prima occasione cominciarono gli attacchi contro la democrazia. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.